misteriosamente sul giornale, fra gli annunci molto espliciti dei telefoni erotici, l'altro giorno è comparso quello che recita: italiana in Cile contatterebbe un vero italiano. Se si chiude un occhio sulla richiesta di autenticità per la nazionalità dell'interlocutore, un'autenticità direttamente proporzionale alla ben nota nostalgia dell'emigrante, viene da chiedersi se non si tratti di un errore. Se l'annuncio non avesse dovuto apparire in tutt'altra colonnina, la comunicazione viene disambiguata soltanto una riga più sotto, allorquando si è trattato di specificare il numero di telefono con il quale mettersi in contatto con l'italiana in Cile, che deve essere più o meno il seguito dell'italiana in Algiri del Rossini. Dopo il numero, infatti, era segnata la località, che, sorpresa ahimè, non era né Santiago, né Valparaiso, né tantomeno Concepción, bensì Amsterdam. Che un'italiana in Cile risieda ad Amsterdam. E allora, nella sua apparente contraddittorietà, è l'unica informazione contenuta nell'annuncio che ne garantisca, con un po' di buona volontà, il perverso erotismo.